X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Simona Bonafè, europarlamentare del PD, la più votata alle ultime elezioni. A Minsk prove di pace sotto le bombe per l'Ucraina? Ma siamo tutti appesi all'esito di questo vertice che ancora deve finire, che non a caso è stato definito l'ultima chance. Ma c'è ottimismo? Ma noi dobbiamo trovare in tutti i modi una soluzione diplomatica che porti innanzitutto a cessate il fuoco, e altrimenti assisteremo a un'escalation che francamente oggi io penso potrebbe anche andare fuori controllo. Quindi l'ottimismo è necessario, diciamo. Ma non risolviamo il conflitto né con l'inasprimento delle sanzioni, a mio parere, e né con l'invio di armi, come vuole il congresso americano, a guida repubblicana. Senta. Io lo ripeto, penso che l'unica strada che oggi si sta perseguendo è quella della risoluzione in via diplomatica, è quella della negoziazione, e penso che sia quella corretta e quella giusta da perseguire fino in fondo. Senta, onorevole Bonafè, dove l'ottimismo è scarso, mi sembra, all'Eurogruppo, Schwab è durissimo, si parla di Grecia naturalmente, e oggi Tsipras incontra la Merkel, ma la Grecia sembra molto molto determinata, diciamo, nella sua posizione più vicina all'uscita dall'euro, è così? Ma senta, io spero proprio di no. Io guardo, ma lì a Bruxelles la sensazione qual è? Ma qui a Bruxelles c'è, se si aspetta di capire quale sarà l'esito dell'Eurogruppo di lunedì, perché come certo. Lei sa, ieri c'è stato un inizio della discussione, lunedì approfondiranno il tema. Certo, guardi, io penso che insomma nessuno dimentica la situazione della Grecia nel 2011, quando iniziò la crisi, avevano un debito pubblico al 200% del PIL e una spesa pubblica fuori controllo, però da lì gli venne offerto un piano d'aiuti, sulla base di quel piano oggi la Grecia è tornata a crescere, e non dimentichiamo che ha un avanzo primario, ma chiaramente è schiacciata dal debito che deve ripagare. Beh, intanto però tra la Grecia e la Russia di Putin sembra sia scoccato più che un flirt, se ne parla a Bruxelles? Guarda, è chiaro che se l'Europa chiudesse gli occhi di fronte alle richieste greche, poi va capito come fare a dare risposte, però è chiaro che si aprirebbero degli spazi pericolosi di manovra da parte della Russia. Beh, intanto si sono già aperti, insomma, voglio dire, mi pare che lì bisogna fare molta attenzione, si gioca col fuoco un pochino. Ma io penso che invece sia le richieste di Tsipras siano legittime, rinegoziare appunto. Il debito sia... sicuramente un punto importante, l'Europa deve valutare insomma se non un allungamento dei tempi di pagamento, una ricontrattazione, comunque una manovra che vada incontro alle esigenze greche, anche perché guardi, qui si parla di una cosa, questo sì glielo posso dire, che dobbiamo mettere fine all'austerity, questo è il punto condiviso da ma tutti. Ma mi pare che anche i sindacati tedeschi oramai siano contro la Merkel su questo punto. Ma che l'austerity abbia in qualche modo bloccato lo sviluppo dell'Europa ormai è un dato di fatto, e che sia necessario puntare sulla crescita anche questo è un dato di ecco, fatto, però, come mostra il piano Juncker. Ecco, però intanto la Merkel è andata con Hollande da Putin, da sola da Obama, sembra aver gettato la maschera dicendo in Europa comando io, è un po' così. Guarda, intanto chiariamo, perché la tattica di Putin si insinua proprio nelle debolezze e nelle contraddizioni dell'Europa, e forse le dimostra ancora di più, perché da una parte chiede di negoziare con Francia e Germania, dall'altra la forza legami, come abbiamo detto prima, con la Grecia, con i governi eccentrici come l'Ungheria. Cioè, vabbè, è la forza, di chi, è la forza di chi può decidere da solo, ma, che tatticamente indubbiamente... si può muovere molto più velocemente, diciamo. Ma si tratta di un'ingerenza, quella di Putin, che io spero che porti l'Europa verso un'integrazione e soprattutto verso un'interrogazione su cosa vuole essere l'Europa, però non c'è dubbio, cioè oggi la Merkel ha assunto un ruolo di primo piano in Europa. Questo certo, è ha buttato la fatto. Maschera e ha detto comando io, adesso bisogna vedere un po' se questo aiuterà l'Europa oppure no. Senta. Io penso, guardi, che il futuro dell'Unione non lo giochiamo con un'Europa a trazione tedesca. Però mi sembra che più che mai è a trazione tedesca, ma se non si reagisce. Ma infatti dobbiamo trovare la capacità di porci come forza autonoma che sa gestire gli squilibri geopolitici con una voce sola, quindi, e con una quindi diciamo no a un'Europa a trazione tedesca, perché di lì non si va da nessuna parte. Ma io sono sempre più convinta che se l'Europa ha un futuro ce l'ha come Unione, non ce l'ha con diciamo la supremazia di uno Stato, ancorché quello tedesco, che è sicuramente uno degli Stati più forti in Europa. Senta, no, è il più forte probabilmente. Senta, intanto a Lampedusa c'è una tragedia, un'altra tragedia, 300 morti, Triton, che era la risposta europea a Mare Nostrum, è un disastro. ma il governo lo difende. Letta dice era meglio prima, era meglio Mare Nostrum. Intanto la tragedia continua. Ma io penso che abbia detto molto bene ieri il Presidente del Consiglio. Sicuramente la risposta a questi barconi della morte non può che essere una risposta europea. Sì, ma non cioè, era stata Triton la risposta europea, un fallimento. Sì, Triton deve sicuramente rafforzarsi con uomini, mezzi, cioè l'Italia ha fatto tutto quello che poteva fare, non può essere lasciata sola e la risposta che è quella europea deve essere maggiormente rafforzata. Su questo sono d'accordo, però ha detto bene ieri il Presidente del Consiglio, cioè che sia Triton o Mare Nostrum, il tema è capire da dove nascono queste ondate migratorie. Questo naturalmente, però l'Italia intanto è sola nell'affrontarla l'emergenza e presta soccorso in condizioni che qualcuno chiama condizioni quasi di guerra. Ma io sono assolutamente d'accordo, cioè penso che appunto l'Italia non se lo possa più permettere di affrontare questi fenomeni che sono fenomeni ormai strutturali, non sono fenomeni passeggeri, cioè questa gente che scappa da guerre, lo vediamo, attorno a noi c'è un mondo in subbuglio, la Siria, l'ISIS, non c'è dubbio. Ecco, e quindi è evidente che l'Europa deve alzare l'asticella, le politiche dell'immigrazione devono essere sempre più coordinate e comunitarie. No, devono cominciare a essere coordinate e comunitarie, non sempre di più, scusi onorevole Bonafè, perché per adesso non l'abbiamo vista l'Europa affrontare questo problema. Beh, sembra che siamo in Europa per i vincoli di bilancio, ma siamo soli per quello che riguarda gli sbarchi. Ma questo è vero, io lo ripeto, cioè se la solidarietà europea si ferma ai confini del Brennero, tanto per essere chiari, c'è qualcosa che non funziona, cioè i confini dell'Europa devono essere, i confini dell'Italia devono essere considerati confini europei. Però mi faccia dire anche questo, non è che con Triton non si sia fatto nulla. Triton è un punto di partenza, lo dicevo prima, dobbiamo necessariamente rafforzarla con uomini e mezzi, cioè gli stati europei devono rendersi conto che da lì passa anche il futuro dell'Unione. Senta, per adesso non si vede questa intenzione al di là delle parole, anzi quando si passa ai fatti dice sono coste vostre, frontiere vostre, affrontatele voi. Lo sa che nel Mar Mediterraneo stanno arrivando dei nuovi tipi di pesci spinti dalla possibilità di mangiare una quantità infinita di cadaveri? Lo sa? Questo è quello che mi sta dicendo, fa venire i brividi. I brividi, però è la verità. In tutto questo noi abbiamo la Mogherini che rappresenta l'Europa, ma per fare cosa? Non era a Mosca con la Merkel e Hollande, non era a Washington con la Merkel, non è a Minsk dove si tratta la pace, ma è stata una battaglia centrale del nostro governo mettere la Mogherini lì, per fare cosa? Ma il problema, se glielo posso dire con molta franchezza, non credo che sia l'assenza della Mogherini, ma l'Europa che in politica estera parla ancora con 28 voci diverse. Cioè, chiaro che lei dovrebbe essere quella unificante, l'abbiamo voluta per quella. E infatti, esatto, io rivendico la scelta del governo italiano e penso che la sfida debba essere quella di lavorare a una politica estera comune, soprattutto adesso in cui c'è bisogno di molta Europa per le crisi geopolitiche che vediamo sempre maggiori e sempre più difficili. Però intanto in tutti gli appuntamenti chiave lei non c'è. Può darsi che sia un modo di fare politica estera, ma difficile da capire. Mario, difficile da capire il modo di fare politica estera da Mogherini. Stavo twittando questa cosa sublime riassunta in tre parole. Non era, dov'era, non c'è. Beh, è tremendo. A Pietrangelo non c'è neanche da chiedere perché l'ha scritto oggi. Posso leggere quello che ho scritto? Io twitto adesso perché è meraviglioso. Io ho scritto questo. La foto del summit è la prova definitiva dell'inesistenza dell'Europa intesa come UE, siccome è una cosa seria la vicenda ucraina. E se poi si considera il fatto che a ricoprire l'incarico, vanto della ferma e decisa capacità politica di Matteo Renzi, ci sia Federica Mogherini, conferma ciò che ormai non può essere rubricato tra i pregiudizi populisti, ma conclamato tra le verità definitive. L'UE non esiste e la Mogherini ne incarna al meglio la nullità del niente definitivamente assente. E intanto torniamo all'ultimo dei problemi che abbiamo trattato, ma il più drammatico, quello dei morti nel Mediterraneo.

il colpevole con questo straordinario brano di Nicola Arigliano. Non è più lo stesso senza te, senza te. I pizzini di Buttafuoco. I pizzini, sì. Una risposta a parecchi nostri ascoltatori che ci hanno chiesto. Ripeto il libro, il titolo del libro di Giampaolo Musumeci, Confessione di un trafficante di uomini. Bolla. Allora, facciamo tutte cose sanremesi di un po' di tempo fa, grandi voci italiane. Bene. Vedrai, vai. C'è una ragione che cresce in me. Dai, ricordate. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi che senso ha. Un'emozione da poco. Vabbè, invece noi dobbiamo raccontare emozioni che non sono da poco. Ritessiamo, proviamo a ritessere il filo della questione europea, Giovanni. Tre temi, anzi tre crisi e un problema, mi pare abbastanza evidente, cioè la rilevanza o irrilevanza dell'Europa, no? E il primo tema è la sicurezza e l'immigrazione, cioè il terrorismo che impone grandi controlli. L'abbiamo detto. I flussi del Nord Africa, però dalla Libia in particolare, dimostrano che insomma non è facile, diciamo così, e che finora le cose adottate non hanno funzionato. Solo una nota a margine, secondo me, tirare giù Gheddafi e gli altri leader arabi senza avere il piano B, cioè chi li sostituisce, è ecco, forse la Francia che ha voluto tirare giù Gheddafi dovrebbe pagare i danni. Che insomma non avevano il piano B, si è visto, è un disastro colossale, un'emergenza umanitaria incredibile. Secondo punto, l'Ucraina, di questo filotto da tre. I colloqui di Minsk non si sono conclusi in realtà, no, si era detto che si, insomma c'è uno stallo in corso. I ribelli non hanno firmato perché vorrebbero il ritiro dell'esercito di Kiev, quel che ne resta, da uno snodo ferroviario. Ovviamente non è solo questo, anche se strategia militare, tattica e politica qua sono molto legate. Vediamo che cosa succede in giornata. Io penso avremo una soluzione o una non soluzione. Circola un documento in 10 punti, o meglio indiscrezioni su un documento in 10 punti, e la Duma, ho visto adesso, chiede naturalmente la fine delle sanzioni se, certo, si raggiunge l'accordo ovviamente a Minsk. Ultimo punto, last but not least, cioè in realtà forse il più importante dal punto di vista degli effetti immediati, è la questione greca. 6 ore di colloqui tra Atene e Bruxelles per giungere a un nulla di fatto, nel senso che non si sono... Se ne riparla. Sì, non si sono messi d'accordo neppure su come procedere con il negoziato. Ed emerge anche nei giornali, abbiamo già detto il piano B, cioè un aiuto della Russia. Vediamo un po'. Salamino! Salamino, surreale passare da Forza Renzi a Forza Salvini non avendo più modo di fare Forza Italia con Forza Silvio. Questo è il ragionamento di Raffaele Fitto, che dopo aver avuto da Berlusconi il dovuto riconoscimento, dopo lo sfascio del Nazareno il cap gli disse avevi ragione, ieri ha ruminato il cavaliere il suo ultimatum e pertanto suffitto la fitta. Che fai, mi cacci? È stata la tua risposta ed è un déjà vu. Lo disse Gianfranco Fini e finì come finì. Ci incappò anche Angelino Alfano e si squagliò per come si squagliò. Maurizio Bianconi, un parlamentare che insomma non le manda a dire, no, intervistato da Repubblica, ha spiegato la situazione. Il governo Monti, la nostra tomba. Quello Letta, un semisuicidio. Il patto del Nazareno e la fine del centrodestra. Insomma, poi ha voluto fare anche una descrizione che ricorda un po' quella di Leonardo Sciascia e Don Mariano. Ha detto che dentro Forza Italia ci sono molti servi, tantissimi sudditi e qualche sicario. I laudatores, infatti, hanno alzato la mano votando all'unanimità qualunque cosa dicesse Berlusconi. La sostanza però è la sostanza. Alessandra Ghisleri in un sondaggio ha fatto la radiografia. Forza Italia è al 14,2. Salvini, sarà l'OPA, sarà quel che sarà, è al 13,9. E quindi prossimamente... prossimamente il sorpasso. Mi sa di sì. Un'altra bolla. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Beh, questo è un pezzo straordinario da brividi, Mia Martini, il titolo era già nell'incipit. E per dire cosa? Che non finisce il cielo, naturalmente il mondo cambia. E cambia tanto che il Club Med è diventato cinese, Giovanni. Insomma, fa impressione. Ormai siamo anche abituati, se volete, ai cambi del capitalismo, al passaggio di ricchezza a Oriente. Però, insomma... è una cosa incredibile, perché la Fosun International ha vinto con un'offerta stratosferica, 939 milioni di euro, e insomma era molto alta rispetto al reale valore del Club Med. E quindi? Si è ritirato Bonomi, che era un italiano, che è un italiano molto in gamba. Vabbè, grande è tutto uomo cinese. Oggi è tutto cinese. È tutto cinese. I cinesi hanno comprato anche i diritti del calcio. E quindi siamo tutto a posto. Cinese. Canzoniere. Questa situazione durava già da più di due giorni ed era avvertita in modo doloroso dai coniugi e da tutti i membri della famiglia, nonché dai domestici. Tutti i membri della famiglia e i domestici sentivano che la loro convivenza non aveva più senso e che persone riunite dal caso in una locanda qualsiasi erano più legate fra loro che non essi. Mix 24. Sì. Mario, hai un'anticipazione col tuo software miracoloso, sì, su Sanremo? Niente di miracoloso, però una bella applicazione che si chiama My Second Screen, che sta adesso seguendo il Festival di Sanremo in particolare, non solo. Beh, l'anticipazione, e poi daremo dati molto più, ancora più dettagliati, ma che il traffico su Twitter è diminuito notevolmente rispetto a Sanremo. Meno 25% sul volume, meno 22% di utenti e meno 33% di interazioni. Vabbè, che cosa significa? Vabbè, la seconda puntata in genere cala sempre un pochino, vedremo il dato assoluto. Intanto, per fortuna, è tornata Sara Tardelli, che è guarita. Ieri ero a letto, malata, ma ho ascoltato la puntata e Udo Gumpel, il giornalista tedesco, ha detto una cosa clamorosa. In realtà la Mogherini viene vista molto meno come rappresentante della comunità europea, ma come rappresentante della politica italiana. Ecco, non mi pare proprio una buona notizia, ragazzi. Renzi aveva detto, punto tutto su di lei. E già, vabbè, avevo dei dubbi, ma io non capisco niente di politica. Poi sembrava che la carica della Mogherini dovesse farci passare le arrabbiature per un semestre europeo un po' inconcludente. Cioè, sì, non abbiamo fatto pochino, ma c'è la Mogherini. Adesso tutti si chiedono, ma perché la Mogherini non è a Minsk? Ma perché non le fanno dire una parola? Ragazzi, guardate che la Merkel e Hollande volevano portarla, ma è successo che? Che cosa c'è? Una terribile sensazione. Che sensazione? Di non aver fatto qualcosa. Cos'altro abbiamo dimenticato? Kevin! Non ci sono parole. Com'è potuto succedere? L'abbiamo dimenticato. Non l'abbiamo dimenticato, abbiamo solo contato male. Ha perso il treno, ha perso l'aereo, mamma mia. Salamino. In principio fu... Marcello, come here. In principio fu la dolce vita, poi ci fu... Poi ci fu Istuardo, Corinne Clery, ve la ricordate quell'inquadratura? Certo, quella quando sale le scale? Quella quando sta ferma sulle scale? Quella quando si siede sulle scale? Di cultura. Ecco, vai. Dopodiché ci fu... Emmanuel! Insomma, tutto il filone delle pellicole di pasta e sugo per la gioia buia di uomini innocenti dagli istinti un po' bestiali. Allora, che è successo? Che ieri io, nella mia qualità di qualità, sono andato a vedere queste 50 sfumature di grigio. Davvero? Sì, frustini, manette, corde, bastone, bastonetti, bastoni, sì, bastonetti pure lucidi, opachi, zigrinati e pure colorati, tutto uno sforzo, Giovanni, per fare il sexy delle naticate. Sì, naticate a chi viene prima. Naticate. Sì, sì, non facevano altro che questo. Cioè, tratto dal bestseller della signora James, il film è, se possibile, ancora più pacco del libro. Insomma, non c'è pasta e non c'è neppure sugo, solo naticate, per cui... Cari ascoltatori, non andate al cinema e riascoltatevi la preghiera di una vergine. E che c'è molta più trasgressione in questa musica. Giuliano da Modena, per il canzoniere. Buongiorno. Buongiorno. La sento che ride, mi fa piacere. Sì, mi fa piacere sentirvi, mi fate divertire molto, molto. Grazie. E allora dove... Beh, era Anna Karenina. Giusto, Feltrinelli. Non si volevo poteva... farvi i complimenti per le canzoni, Secchi. Secchi e Buttafuoco hanno due colonne sonore meravigliose. Grazie. Mario, c'hai ancora una bolla? No, a parte che hanno svaligiato la farmacia a Bari. Allora, ma è mancato il numero legale alla Camera per le riforme. È una cosa. Il numero legale alla Camera per le riforme. Sì, beh, ci sono tensioni enormi. Mi sembra ieri notte sono venuti alle mani. Sono una partita ancora tutta da giocare. Spettacolo. Ecco, oggi noi raccontiamo la storia di Alexander Langer, leader dei Verdi, un pacifista, che è stato un politico che ha speso la sua vita per avvicinare i popoli con il sogno di un'Europa unita, un sogno che in questo momento sembra lontanissimo. E subito dopo il giornale radio, la puntata appunto di Cristina Fratelloni, curata come sempre da Marina Milone, che ha intervistato Gianni Mattioli, leader dei Verdi di allora. Prima della pubblicità, Amandoti di Gianna Nannini. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria che vuoi farci la vita. È la vita la mia.